Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, per salvare Garibaldi arriva l'amnistia. Alla fine è stato approvato, discusso, contrastato, invocato il decreto che cancella reati e pene per i garibaldini dell'Aspromonte, è stato firmato dal re. Amnistia per gli autori e i complici dei fatti e tentativi di ribellione che ebbero luogo nel mese di agosto nelle province meridionali, se non colpevoli di reati comuni. Restano esclusi i militari disertori. Se catturati possono essere fucilati sul posto. Plotone! Caricate! Puntate! Fuoco! Per giorni Vittorio Emanuele II si era lungamente interrogato, fatto oggetto di critiche e attacchi, ovviamente anonimi, con volantini che lo accusavano, insieme al governo, di aver prima appoggiato Garibaldi e poi di averlo abbandonato, non poteva trovare una facile via d'uscita. Concedere un perdono senza motivo lo avrebbe esposto a nuovi attacchi. D'altronde le proteste e le tensioni nel paese, dopo l'arresto dei volontari dell'Aspromonte, non sembravano aver fine. La fortunata circostanza che ha permesso la svolta è un matrimonio reale che rafforza, tra l'altro, il ruolo della dinastia Sabaudi in Europa. Il 27 settembre Luigi, re di Portogallo, ha sposato per procura la principessa Maria Pia di Savoia, figlia del re d'Italia. La cerimonia è stata solenne nonostante l'assenza del sovrano lusitano, che si è fatto rappresentare dal principe di Carignano, e si è svolta nella cappella della Santa Sindone a Torino. Come nella tradizione, Vittorio Emanuele ha così potuto concedere l'amnistia ai carcerati d'Aspromonte, compreso Garibaldi. Le tensioni si sono così spostate verso il governo. Alla ripresa dei lavori parlamentari a novembre ci si attende una vera battaglia e più di uno scommette che l'esecutivo Rattazzi non arriverà a Natale. Paolo Piacenza, al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.